E di nuovo su Radio Wombat, Poyo It, in questa seconda parte della trasmissione, come annunciato, stiamo per presentare l'agenda anticarceraria autoprodotta da Radio Onda Rossa, ovvero la Scarceranda 2021. E sono più di 20 anni che questa agenda viene pubblicata ed è un'agenda vera e propria, ma che ha anche allegato un quaderno con approfondimenti, lettere, disegni, poesie e anche ricette da cella, le ricette evasive. E poi l'immancabile guida per chi ha la sfortuna di entrare in carcere. Per parlare di questo e di altro, oggi abbiamo invitato a questi microfoni un compagno di Radio Onda Rossa, che è da tempo uno dei curatori di questa agenda. Intanto lo salutiamo e ringraziamo per la sua partecipazione. Ciao e benvenuto. Ciao, grazie a voi per avermi invitato per questa intervista e un saluto a chi ci sta ascoltando. Viva! E se sei d'accordo, io vorrei iniziare questa presentazione. Come anche poi inizia il quaderno allegato, da un'assenza, da un vuoto, che è quello che ha lasciato Salvatore Ricciardi, la cui voce tante volte abbiamo sentito proprio su Radio Onda Rossa, e che è un compagno che ha sempre animato a Roma e non solo le lotte contro il carcere. Io rammento bene il giorno della sua scomparsa e ricordo che ne avete fatto a San Lorenzo perché era inizio aprile e ne abbiamo parlato anche qui su Radio Wombat durante le dirette quotidiane che facevamo durante lo scorso confinamento. Tu che lo conoscevi bene, vuoi magari darne un breve ricordo? Sai, conoscevi bene, quando si tratta di un compagno che ha animato le lotte nella città di Roma e non solo, diciamo dagli anni 60 in poi, è difficile pensare che ci sia stato, no? Qualcuno di noi che l'ha conosciuto bene in tutte le sue esperienze. Sicuramente però, come dire, io ho vissuto, no? Con grande felicità, no? Il Salvo dopo la sua liberazione, perché Salvo in carcere ci ha passato 30 anni per la lotta armata con le Brigate Rosse e diciamo della lotta al carcere è sempre stata uno dei suoi così, punti nevralgici, è sempre stata una certezza, no? Nei presidi che facevamo, no? Come quello che facciamo ogni anno il 31 dicembre nella costruzione di Scarceranda, in generale nell'elaborazione di un discorso contro il carcere, che chiaramente però noi, magari cercherò anche di parlarne dopo, abbiamo sempre pensato come un qualcosa che riguarda la società nel suo complesso, no? Non si può lottare solamente contro il carcere o contro alcuni aspetti del carcere, magari senza lottare contro gli altri. E Salvo, infatti, era un compagno estremamente presente alla sua veneranda età, perché comunque ci ha lasciato all'età di 80 anni e ci ha lasciato alla fine per, diciamo, gli effetti di una caduta mentre stava attacchinando uno striscione dell'8 marzo, così come non si è mai tirato indietro quando si trattava di seguire le lotte dei lavoratori e lavoratrici della logistica, e così come insomma c'è sempre stato in moltissime altre situazioni. Quindi quella di un compagno generoso che ci ha aiutato a costruire un pensiero, a sviluppare delle riflessioni sul carcere, che in radio poi sono state importantissime. Lui curava da molti anni la trasmissione La Conta, che si chiamava così proprio perché veniva fatta nell'orario che tipicamente è quello della Conta, un orario in cui grosso modo si sta in cella e non ci sono molte cose da fare. Quindi la radio poteva essere una buona compagnia per quel momento e uno spazio in cui lui parlava di quello che succedeva nelle carceri, delle novità, di alcuni aspetti. Una delle sue ultime trasmissioni, pensate un po', riguardava proprio il tema della salute in carcere, un tema che insomma sarebbe diventato di lì a pochissimo di Attualissimo. un'attualità irrimandabile. E insomma, Salvo ci lascia ad aprile, no? Dopo insomma, un mese di sofferenze, e tra l'altro senza per noi la possibilità di poterlo incontrare, nonostante non fosse un paziente Covid, e ci lascia, come dire, in un momento davvero particolare. Io sinceramente non mi sarei aspettato che così, dopo magari anni di cui di alcuni temi dell'abolizione del carcere, della polizia, pur si parlava, ma oggettivamente con delle grandi difficoltà, di botto potesse diventare il titolo principale dei quotidiani, quello del come si fa ad abolire la polizia, che cosa vuol dire se ci interessa farlo. E è stato per me incredibile che da lì a pochi mesi questa diventasse la notizia del giorno, e niente, voglio Voglio pensare che, insomma, salvo questo fenomeno, purtroppo se l'è perso, ma diciamo, noi in questa esperienza di lotta, in tutte quelle che porteremo avanti, invece non ci dimenticheremo, quello che ci ha lasciato. E noi nemmeno senz'altro, anzi infatti un suo scritto, peraltro presente all'interno del quaderno, si intitola, di quest'anno, si intitola Carcere, intrigo devastante, e a proposito, fra l'altro, di abolizione della polizia, sempre all'interno del quaderno, vi è uno scritto, vi è la traduzione di un documento che si intitola Una campagna per l'abolizione della polizia, che è appunto la traduzione in italiano di questo documento che è articolato in 8 punti e che è stato pubblicato negli Stati Uniti durante le lotte che hanno fatto seguito all'uccisione di George Floyd proprio da parte della polizia. In questo documento ciò che si rivendica, l'ho letto proprio ieri, non è tanto una riforma come invece una campagna dal nome simile chiedeva, ma proprio uno smantellamento della polizia, un'abolizione della polizia stessa. E lo pubblicate questo documento nel quaderno scrivendo nell'introduzione come vi sembra uno spunto di riflessione utile per chiedere concrete misure tese a una società senza carcere. Ora, senza che stia io a farla lunga, vuoi dirci qualcosa di più a riguardo? Sì, voglio fare una premessa, diciamo, di metodo, nel senso che, come è giusto, che sia, di proposte, nella primavera, statunitense di quest'anno, che dalle rivolte contro la brutalità poliziesca, in qualche modo ha trovato un punto di non ritorno, nel senso che, le proteste contro la brutalità della polizia hanno iniziato a dire in maniera ormai, inconfutabile che bisognava farla finita non solamente con il singolo poliziotto violento e nemmeno con alcune specifiche tattiche o alcune modalità della polizia, ma bisognava farla finita con l'idea di polizia e che questo era l'unico modo con cui si sarebbe potuta ottenere una società senza la violenza della polizia. Ecco, in questo dibattito, che chiaramente ha visto moltissime proposte, non è che quella che abbiamo selezionato sia l'unica che incontrava, no, il nostro favore o abbia un endorsement particolare. Diciamo che sicuramente ci sembrava una proposta buona e era anche una proposta, come dire, ripubblicabile nel nostro quaderno e pertanto l'abbiamo inclusa, ma senz'altro non stiamo mettendo una pietra, così, che chiude definitivamente il dibattito su cosa vorremmo o non vorremmo fare, tanto più non ci permetteremmo su un posto degli Stati Uniti che sì, certo, conosciamo e ce ne siamo occupati tante volte, ma oggettivamente non è il posto che conosciamo meglio in assoluto. E questa proposta in 8 punti, diciamo, è molto interessante perché mette insieme alcuni aspetti che sono forse peculiari della campagna Defund the Police, come è stata chiamata, e che ha insistito molto anche nel linguaggio su un aspetto che in effetti è bene non dimenticare, il punto, secondo questa campagna, qual è in buona parte? Che la polizia può diventare, e spesso diventa, il sostituto per qualsiasi altro provvedimento contro qualsiasi altro problema. Ovvero si pone il problema dei troppi furti nel quartiere, si risolve con la polizia. C'è il problema del fatto che le persone vivono sbandate, senza tetto e alle volte si manifestano anche in comportamenti che, insomma, sono magari considerati pericolosi, che lo siano davvero oppure non lo siano, incutono timore ad altre persone, gli mandiamo la polizia. Alcune persone hanno i problemi psichiatrici, le chiudiamo in una roba che è praticamente uguale ad un carcere, anche se non la si può chiamare carcere. Questo, diciamo, è uno dei punti principali contro cui si scaglia e per questo prova a dire togliamo la polizia e sostituiamo la polizia con delle risposte effettive ai problemi che abbiamo di fronte. Quando ci troviamo di fronte ad una persona che ci sembra abbia una sofferenza di tipo psichiatrico o psicologico, quella persona non ha bisogno della coercizione, ma ha bisogno di un'assistenza, di una cura, cioè deve partire un medico. Quando qualcuno segnala un caso del genere, non deve partire una macchina con persone armate che la prima cosa che fanno è ammanettarlo. Quindi questo ci è sembrato un primo punto molto interessante. Un altro punto è che che vorrei sottolineare, così anche per riportarlo, cioè non vorrei, ecco, che quando nominiamo gli Stati Uniti, che alcune cose, no, insomma, senza che l'elenco un po' le sappiamo di come gli Stati Uniti hanno questo estremo impatto della polizia, potremmo magari pensare che in fondo quella è roba loro e che è giusto lottarci contro, ma noi qui non ce li abbiamo e siamo più fortunati. E magari un po' lo saremo, magari noi in effetti non abbiamo la polizia armata dentro le scuole, né pubbliche né private. Non ce l'abbiamo armata come forza di polizia, ma ne abbiamo tantissima che fa propaganda dentro le scuole. Quindi da questo punto di vista la polizia, la sua presenza nelle scuole, per esempio, ce l'ha ancora. E la polizia nelle scuole è veramente un problema molto grosso. Voi provate a ripensare alla vostra adolescenza e provate a pensare che quando facevate qualcosa, invece di mandarvi dal preside, chiamavano la polizia e vi portavano in commissariato, e questo più o meno, no, ha la prima cosa che facevate, specie naturalmente se eravate neri o comunque razzializzati. Eh sì. E quindi in questo manifesto, no, si dice definanziare la polizia, togliere la militarizzazione delle comunità, abolire tutte quante le leggi che criminalizzano la sopravvivenza, no? Quindi per esempio il dormire in strada, che in moltissimi stati degli Stati Uniti e tra l'altro anche in parte anche in Italia è criminalizzato, dormire in realtà anche in macchina in molti posti degli Stati Uniti è vietato, no? Oppure la prostituzione, un'altra legge che criminalizza i modi che le persone hanno di sopravvivere. Praticamente quello che si fa è che tutte le persone che non arrivano ad una fascia di reddito, di possibilità, no? Che si possono identificare nella vita normale, standard, che si vuole che tutte le persone abbiano, tutte quante le altre vengono spinte verso il carcere da leggi che criminalizzano ogni loro comportamento. E ancora investire nella capacità di una comunità, di un quartiere, di autogovernarsi e di darsi quindi degli strumenti per rispondere ai problemi che hanno, dare case per tutti, investire nella cura in generale, quindi non solamente nella sanità, no? Ma nell'avere le risorse di cui le persone hanno bisogno e non solamente nel numero di poliziotti, perché ricordiamoci che il budget della polizia aumenta incredibilmente negli Stati Uniti, ma aumenta anche dalle nostre parti, quindi anche da questo punto di vista io direi che molte di questi punti, chiaramente con, no, qualche trasposizione, con qualche accento diverso, si applicano almeno a delle riflessioni anche nel posto in cui noi viviamo, direi anche in tutta Europa. Sì, l'ho trovato davvero molto interessante. Infatti, questo documento e anche il fatto che, come dicevi, infatti, vi sia ad esempio la rivendicazione di una casa per tutti, ovvero quella di togliere ciò che è presupposto, materiale, diciamo, strutturale a ciò che è considerato illegale, insomma, così come la presenza della polizia nella scuola e così via. Se sei d'accordo, ritornare geograficamente più vicini subito a noi, senza dilungarci molto, ma rilanciando alla lettura sul quaderno di Scarceranda di quest'anno, io vorrei far presente come nella nuova Scarceranda anche non mancano racconti e testimonianze di ciò che è successo a marzo scorso nelle carceri italiane, cioè di quella serie di proteste e di rivolte che si sono svolte un po' dappertutto, portando anche in alcuni casi alla cacciata della polizia, dagli istituti penitenziari e alla morte di almeno 15 detenuti, ufficialmente, però direi falsamente, avvenute per overdose di metadone. Ecco, con Scarceranda e con Radio Onda Rossa voi seguite attentamente le vicende delle carceri, allora vorrei chiederti quanto c'è di non raccontato, di non divulgato, insomma. E se adesso è mutata la situazione o se invece quei problemi che hanno innescato ciò che abbiamo visto a marzo sono ancora tutti lì. Ma guarda, quando si parla di racconti, informazioni e carceri, si vive in un enorme paradosso. Nel carcere vivono purtroppo decine di migliaia di persone. Le notizie sul carcere la danno sempre solamente i sindacati di polizia, che chiaramente ne danno la narrazione che vogliono loro. Quindi, diciamo, sostanzialmente, nella maggior parte delle notizie, i sindacati di polizia poi puntano a dire che quindi servirebbero più assunzioni o più tutele per i poliziotti stessi. E, di carcere sembra che non si possa scrivere null'altro. Quando ci sono state le rivolte in questo marzo, rivolte che dicevano qualcosa di La palissiano, cioè dicevano nel carcere non ci sono le condizioni minime di salute, ma a prescindere dal Covid, non ci sono le condizioni minime di salute in generale, c'è il Covid, c'è la cosa del distanziamento, allora non può che conseguire che dobbiamo andare tutti quanti a casa. Bisogna andare, ognuno, almeno tutte le persone che possono, almeno tutte quante quelle che non hanno delle ordinanze specifiche che gli dicono di essere incredibilmente pericolosi, vogliamo accettare questa distinzione, pur molto problematica, ma bisognava scarcerare la gran parte della popolazione carceraria. Questo era l'unico modo per avere la sanità, no, per mantenere una situazione dignitosa. E diciamo questo assolutamente il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non solo non lo ha accolto, ma ha reagito con estrema violenza alle rivolte che ci sono state, rivolte che, come giustamente dicevi, in alcuni carceri, soprattutto a Modena, sono riusciti a prendere il controllo di intere sezioni e quindi insomma la loro voce molto forte l'hanno data. L'intervento della polizia è stato pesantissimo e al termine dell'intervento contiamo 15 morti, questo sono il risultato della repressione. Su tutti questi morti cade quella che più che un'autopsia mi sembra un'accusa, cioè quella della overdose di metadone, quasi a confermare in un colpo solo tutti gli stereotipi che si poteva dire, che quella rivolta non era veramente per i motivi che l'hanno animata, che in fondo i carcerati sono solamente dei drogati e che quindi è giusto nuovamente chiuderli. L'overdose di metadone, insomma, confrontandomi con un po' di persone che no, magari hanno qualche conoscenza medica o cose del genere, sembra di capire che non soltanto nel caso specifico è piuttosto chiaro che se non tutti e 15, almeno la stragrande maggioranza di quei 15 dovranno essere viceversa delle morti violente. È ben difficile che proprio tutti quanti vanno in overdose di metadone, ma l'overdose di metadone è un fatto rarissimo. Non succede praticamente mai che qualcuno possa andare in overdose di metadone. Che sia successo esattamente tutto quanto in quei giorni, mentre la polizia che tattica ha utilizzato, questo per capirci anche qual era il livello di controllo, ha iniziato da fuori al carcere a dare dei colpi di arma da fuoco con cui non colpiva direttamente i reclusi, ma sostanzialmente li faceva scappare, sparando raffiche di arma da fuoco in modo che i detenuti indietreggiassero, rientrassero nelle sezioni. E a quel punto, diciamo, senso, mentre diciamo, in teoria all'aperto era chiaramente molto difficile, ma ci sarebbe potuta essere visibilità, sarebbe potuto succedere, no? Che magari qualche giornalista, qualche curioso anche così, con un drone magari ci provava ad andare a vedere cosa stava succedendo, magari qualcuno si sarebbe potuto arrampicare, no? Su qualche collinetta per vedere, porta tutto quanto dentro le sezioni e dentro le sezioni manda i reparti di picchiatori, con il risultato che sappiamo, le notizie che riceviamo ci parlano, come era prevedibile, di torture dentro quei carceri in quei giorni, oltre appunto alle morti che sono state causate. Tutti quanti poi i detenuti sono stati trasferiti, come avviene di consueto quando ci sono rivolte, e attualmente insomma, sembra anche che questi detenuti stiano anche in alcuni casi cercando di far uscire la voce con degli esposti, ma che questo riceva fortissimo ostruzionismo. Insomma, la polizia ha reagito con solo repressione in tutti quanti i modi peggiori che poteva inventarsi, e con un provvedimento di cui si sono ampiamente vantati, dicendo che avevano effettivamente preso dei provvedimenti, ma un provvedimento che ha scarcerato una parte estremamente bassa della popolazione carceraria. Quindi, come dire, per qualche soggetto questo ha consentito quantomeno un miglioramento della sua salute, perché sono stato tolto da una cella, è stato portato, no, magari a casa sua, con cui vive con qualche altra persona, ma sicuramente in degli spazi un po' più salubri, e quindi diciamo per queste persone si tratta di una buona notizia. Però complessivamente dentro le carceri ci sono ancora decine di migliaia di detenuti che tuttora sono in carceri sovraffollate, cioè nel senso a togliere il 10% della popolazione carceraria dal carcere non si riduce il problema del sovraffollamento, diciamo per gli standard del sovraffollamento pre-Covid. intendo. Figuriamoci in quelli post-Covid, in cui l'assetto sanitario si è mostrato per quello che era, cioè la sanità non è stata curata in nessuna maniera. I tamponi fatti dentro il carcere sono stati pochissimi, li facevano sostanzialmente solo alla polizia e solamente in casi particolari. Li facevano anche ai detenuti, che è il modo con cui l'amministrazione penitenziaria può dire che ci sono pochi casi di positività Covid nel carcere, cioè con il metro più vecchio del mondo, cioè non fare i tamponi. E allo stesso modo vediamo. Sempre ci arrivano voci da parenti dei detenuti, persone detenute, che molte persone non vengono nemmeno trasferite in delle celle in cui ci sono solo persone positive o in cui si sta da soli o cose del genere, ma semplicemente persone positive al Covid vengono tenute nella stessa cella con persone negative al Covid, con la raccomandazione di usare la mascherina, che però voi capite che usarla 24 ore su 24, anche quando si dorme, è un affare piuttosto complesso e comunque lo sappiamo, la mascherina non è la panacea per tutti i mali, altrimenti non ci metterebbero in quarantena quando siamo positivi o abbiamo avuto un contatto con i positivi, no? Ci direbbero solamente di usare la mascherina. Evidentemente queste norme sanitarie smettono di valere quando si arriva alle porte di un carcere. Beh, a maggior ragione in questo scenario disarmante, che intanto ti ringrazio molto per averci fornito. Ci sembra allora importantissimo, direi, il presidio solidale che avete lanciato a Roma sotto il carcere di Rebibbia la mattina del 31 dicembre, del giorno di Capodanno, del quale abbiamo fra l'altro già sentito nello spot in apertura di questa conversazione. E beh, anche se da qua ancora non sappiamo se potremo venire, ma ci speriamo senz'altro parecchio di partecipare, vogliamo lo stesso magari rilanciare quell'appuntamento. Sì, certo, noi il 31 dicembre facciamo questo presidio, lo facciamo da tanti anni, ogni anno è un saluto che facciamo alle persone recluse fuori dal carcere di Rebibbia e diciamo perché un saluto, perché il 31 dicembre è diciamo, un modo di innanzitutto di ricordarci tutti che il carcere esiste, perché insomma i carceri, specie no, magari quelli più moderni, sono più che esibiti, sono molto nascosti anche alla città stessa che magari ci vive a due passi. Invece il carcere va visto per quello che è, come nella sua bruttezza bisogna anche un po' andare fuori e rendersi conto di cos'è quel mostro che abbiamo nelle città più grandi di tutta quanta la penisola. E quindi andare fuori, salutare le persone recluse, festeggiare tra virgolette con loro un Capodanno che chiaramente come dire, è sempre un'emozione forte per me andare fuori il carcere il 31 dicembre, nel senso che si nota come questo saluto sia anche festoso, ma chiaramente no, sia, ovviamente lo sappiamo tutti, è un saluto effimero, noi andiamo, mettiamo la musica, ci salutiamo con le persone recluse, facciamo letture, abbiamo insomma anche parecchie risposte da dentro, perché comunque da alcuni punti diciamo, la comunicazione tra interno e esterno è piuttosto facile e quindi questo sicuramente è un qualcosa di molto bello, no? Si riesce a superare quel muro apparentemente invalicabile che divide le persone dentro dalle persone fuori e quindi, no, come dice una vignetta che ci ha fatto il Repush per la Scarceranda di quest'anno, ci convince che siamo meglio delle persone che stanno dentro. Serve anche a questo il carcere, a farci sentire meglio di qualcun altro. E invece se andiamo lì cerchiamo di superare queste barriere, è sempre un momento secondo me molto forte, sicuramente molto importante per quello che sta dentro e anche da lì insomma parliamo di Scarceranda, parliamo del lavoro politico che facciamo, insomma l'invito per chi potrà, chiaramente non è mai stato semplice spostarsi il 31 dicembre, ma quest'anno mi sembra particolarmente complicato. Comunque il 31 dicembre fuori Rebibbia troverà sicuramente il nostro presidio. Alle 10:30 direi che speriamo davvero di poterci essere. Magari non abbiamo ricordato che Scarceranda, ma direi che è il momento di dirlo, è gratuita per i dipendenti, per i detenuti che ne facciano richiesta. Basta. Scarceranda è gratuita chiaramente per chi è in carcere, noi la mandiamo a chiunque ne faccia richiesta dentro il carcere e quindi diciamo è un nostro modo per entrare in comunicazione, questo è anche un po' il senso di questo oggetto. La comunicazione con il carcere non è mai semplice, serve sempre magari no, un piccolo trucco per riuscire ad entrare e questo è un po' no, il nostro piccolo trucco, l'avere un oggetto semplice, un'agenda, quindi di uso comune che però contiene anche pensieri. pensieri, riflessioni, contiene anche delle utilità pratiche. Faccio un esempio molto scemo, ma che dà anche un po' l'idea del a volte quanto dimentichiamo che dimensione particolare sia il carcere. L'indirizzario di tutte quante le carceri è qualcosa che per chi è in carcere è molto utile, perché magari un tuo concellino viene trasferito a Brescia, ma non è che poi tu puoi mandare una lettera con scritto carcere di Brescia e aspettarti che quella arriva. Serve un indirizzo più preciso. E la procedura dentro il carcere per ottenere quell'indirizzo non è per nulla semplice, anzi direi che è complicatissima. Quindi anche il semplice passare un indirizzario è un modo per avere, no, uno strumento per entrare in contatto con chi è recluso, e chiaramente invece per poter finanziare le spedizioni che facciamo dentro il carcere, noi la vendiamo fuori dal carcere. Per questo diciamo la formula per ognuna comprata, una dentro il carcere, perché più o meno i costi sono quelli, e quindi la potete comprare a 12 euro nei banchetti, se riuscite ad avvicinare un qualche banchetto nostro o di chi insomma ne organizzi qualcuno nella vostra città. La potete anche ordinare online, e sul sito scarceranda.ondarossa.info trovate tutte le informazioni. Una piccola aggiunta invece per chi si trovasse a Firenze, avesse modo di, o nei pressi, avesse modo di spostarsi, il punto di distribuzione cittadino in quest'anno in cui è particolarmente appunto difficile non solo muoversi ma anche organizzare presentazioni ed eventi in presenza, dunque sta al Next Emerson come punto di distribuzione ma può essere chiesta insomma scrivendo anche ad assemblea@csaxemerson.it oppure partecipando direttamente domenica prossima, in occasione del pranzo solidale alle comunità zapatiste del Messico, che è stato organizzato assieme alla presentazione del libro Sindrome di Peter Punk con l'autore Massimo De Meo. Ci sarà lì anche Scarceranda e per chi invece non ci ascoltasse da Firenze e non avesse modo di riceverla, appunto le indicazioni le abbiamo date. Fra l'altro nel quaderno ho fatto caso che ci sono, oltre che gli indirizzi di tutti gli istituti penitenziari, con anche gli indirizzi email, eccetera, una serie di altre utilità per chi è effettivamente recluso, come le domande per il patrocinio, le schede di reclamo, tutte precompilate. Beh, io direi che abbiamo detto quasi tutto nel tempo che avevamo a disposizione, sta infatti finendo la nostra mezz'ora. Vogliamo dire ancora qualcosa? Ci stiamo dimenticando di qualcosa di importante prima di un saluto? Tantissime sicuramente, ma ci sarà un'altra occasione, magari anche dal vivo. Sì, infatti davvero speriamo di risentirci, ma anche e soprattutto di rivederci presto. Intanto allora di nuovo grazie davvero per la tua partecipazione. Scarceranda 2021 da Radio Onda Rossa, noi siamo su Radio Wombat, poi UIT. Grazie e a presto. Ciao ciao!